L'abbiamo fatto perché vediamo una strana tendenza al suicidio collettivo, perché abbattere, appunto, come dicevo prima, un bosco intero in piena città con l'emergenza delle polveri sottili e le patologie collegate, soprattutto in zone ad alta densità di traffico e in area scolastica, perché i bambini sono veramente colpitissimi da questo, ci sembra veramente un atto ingenuamente suicida, lo chiamava Alexander Langer, di cui io sono stata un po' seguace, tra virgolette, ai tempi della politica verde. E quindi ci sarà lo yoga day ai prati di Caprara. Esatto, ai prati di Caprara, speriamo di sì, se no ci sposteremo, se ci saranno problemi nell'area adiacente dove c'è la ciclabile, appunto per portare tutto il nostro sostegno alla vita in generale. Ricordiamo che noi viviamo perché respiriamo e senza ossigeno non c'è vita. Banale, ma sembra che ce lo siamo dimenticato un po' tutti, a partire dalle istituzioni che ci rappresentano. A proposito di istituzioni, voi avete fatto un appello al sindaco, ma non solo, venite, vedete il parco e fate yoga. Certo, perché è interessante osservare come questa vegetazione abbia di fatto occupato quest'area cittadina. Se andate sulla pagina del Comitato Rigenerazione e Non Speculazione trovate un'interessantissima intervista a un botanico che spiega come peraltro questo bosco sia magnificamente autosostenuto, nel senso non c'è intervento umano. Quindi di fatto è anche, come dire, di una bellezza ecologica in sé veramente speciale. Sarebbe un peccato anche per tutti gli animali che adesso vivono in quest'area distruggerlo, principalmente per noi. Quindi l'invito è sempre valido, faremo una bellissima passeggiata meditativa all'inizio per far visitare proprio le aree di quello che noi speriamo diventi un parco, e poi vi invitiamo tutti a sperimentare un po' di pace della mente, dei sensi e delle emozioni nel posto più adatto, che appunto è il verde che ci circonda. Prima parlavate anche di una questione sanitaria e di salute, avete citato il monitoraggio di aria pesa, quella è una zona altamente inquinata. Certo, e appunto è di oggi la notizia che un gruppo di medici per l'ambiente ha preparato proprio un comunicato che ha già collaborato con l'esperimento di Milano, a cui Aria Pesa fa riferimento, e che sta facendo la stessa cosa su Bologna, quindi con dati anche epidemiologici sulla situazione sanitaria, che sembra che siamo tutti un po' concentrati sull'urbanistica, che sicuramente è gravissimo, ma c'è tutto un aspetto sanitario che non si può sottovalutare nella maniera più assoluta. Da questo punto di vista, voi dite no alla costruzione di un quartiere, deve rimanere il verde, bisogna farci un parco. Però c'è stato un processo democratico, il Consiglio Comunale ha votato un piano urbanistico, quelle persone sono state votate, sono dei rappresentanti, sono la maggioranza al momento. Il concetto democratico avrei qualcosa da ridire. Se 4.500 cittadini si rendono conto a un certo punto che qualcosa, che magari anche ingenuamente, io guarda, sono molto ottimista rispetto all'umanità, penso che la buona fede sia quello che comunque ci muove. Si possono fare anche degli errori da consiglieri comunali o da autorità, però se i cittadini fanno notare che c'è un problema e ci sono evidenti problemi appunto urbanistici, sanitari, si possono anche rivedere le decisioni. Questa mi sembra una cosa importante, perché Bologna ha vinto anche un premio come città partecipata. Facciamo sì che questa cosa sia reale e non soltanto così un'immagine che non corrisponde alla realtà.